Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia, il nostro spazio di ascolto e riascolto di eventi e incontri che si sono svolti nel tempo recente, qualche settimana fa, al massimo qualche mese fa, nel territorio della Diocesi di Padova. Siamo oggi a uno dei nomi più prestigiosi passati per la Città del Santo, il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, intervenuto al Dies Academicus con cui si è inaugurato il 28 marzo scorso il 12° anno di attività della Facoltà Teologica del Triveneto. Il Cardinale Ravasi ha sviluppato il tema Fede e Cultura nell'orizzonte della Evangelii Gaudium. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Innanzitutto vorrei associarmi al saluto che è stato rivolto da chi mi ha preceduto negli interventi a tutti voi. Naturalmente il mio saluto va a partire dal Gran Cancelliere, il Patriarca di Venezia, al Vescovo di questa città, al Preside e al Corpo Docente e poi a tutte le autorità ecclesiali, i Vescovi che sono qui presenti, le autorità civili e militari e soprattutto al mondo degli studenti. Io sono particolarmente felice di poter fare nell'interno della trama del mio infinito numero di conferenze che tengo, di interventi, di incontri, di aver avuto l'onore di fare questa prolusione, perché la parte forse più intensa, più significativa, centrale della mia vita si è svolta proprio nell'interno delle aule accademiche di una facoltà di teologia. Io proprio per questo motivo vorrei fare una riflessione con voi in maniera, se si vuole, un po' didascalica, un po' didattica persino. Anche perché il tema che mi è stato assegnato usa un aggettivo che era nella premessa del Patriarca di Venezia, l'aggettivo complesso. L'orizzonte che mi è stato assegnato è complesso, anzi è sterminato, anzi è ininterrottamente fluido e mutevole. E io mi fermerò perciò su tre vocaboli che sono quelli che stanno quasi come una trilogia portante del discorso di quest'oggi, cioè la parola cultura, la parola Vangelo, naturalmente sempre in connessione con la cultura, e soprattutto alla fine è la parte forse anche un po' più didascalica, l'Evangelii Gaudium, che era il referente che mi era stato dato. Inizio perciò subito con la prima parola, la prima categoria, che è quella però come da considerare come una sorta di prospettiva che illumina il prisma interpretativo delle altre due componenti, cioè la parola cultura. Dirò delle cose in maniera molto semplificata, io poi consegnerò un testo molto più ampio, perché effettivamente siamo di fronte a un ambito, a un territorio sul quale ci si muove come su sabbie mobili. Tra l'altro ben sapete che la parola cultura, che pure è di matrice latina, colere, che dà origine, che ha il verbo colere ha dato origine a cultura e a culto, non esiste nella, possiamo dire, nella classicità romana, latina. Esiste una sola volta in verità, nelle Tuscolane di Cicerone, quando egli parla della agricoltura, la cultura dei campi, e la usa come simbolo, metafora, per rappresentare la cultura animi, che è la filosofia. Ecco, è significativo perciò che questo vocabolo in pratica nella classicità non esiste. E vedremo quali sono gli altri vocaboli, perché sono interessanti. Ciò che invece diventa ormai appannaggio comune dei nostri linguaggi in tutte le lingue, affiora soltanto nel Settecento illuministico, potremmo dire, Settecento tedesco, con la parola Kultur in tedesco. È da allora che questo vocabolo diventa una sorta di grande fiaccola, di grande emblema. E allora ecco la domanda: che cosa usavano latini e greci per esprimere questa categoria? E qui è estremamente significativo il lessico, come sempre. Voi sapete che le parole sono delle, come diceva Victor Hugo, sono esseri che vivono. Essi usavano, il latino usava humanitas, il greco usava paideia. Voi vedete chiaramente che siamo con un concetto molto significativo di cultura, che paradossalmente è diventato il concetto contemporaneo. Perché quando è sorta questa categoria nell'interno della cultura tedesca, rappresentava l'aristocrazia del pensiero, rappresentavano le scienze, la filosofia, le arti. Ora invece noi sappiamo che il concetto di cultura nella attuale civiltà è un concetto antropologico, tant'è vero che non si ha nessun imbarazzo nel parlare di cultura industriale. Anche un operaio che compie un particolare, che sta elaborando un particolare manufatto, se lo fa con una coscienza e con una particolare capacità elaborativa, compie un'opera culturale, perché appunto la categoria è entrata, come era nel passato, a rappresentare l'humanitas, la paideia, la formazione della persona. E a questo proposito, il vocabolo era caro, è cominciato cultura, ma con questa accezione è cominciato a diventarlo soltanto a metà degli anni 50 in avanti del secolo scorso. Ebbene, è significativo anche sentire, per esempio, come Giovanni Paolo II, parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1995, cercava di raccordare questa categoria alla fede. Qualsiasi cultura è uno sforzo di riflessione sul mistero del mondo e in particolare dell'uomo. È un modo di dare espressione alla dimensione trascendente della vita umana. Il cuore di ogni cultura è costituito dal suo approccio al più grande dei misteri, il mistero di Dio. Voi vedete che è partito da una rilevazione, se volete, quasi fenomenica, antropologica, per ascendere poi a questa dimensione trascendente fino alla formula esplicita religiosa. Naturalmente sarebbe interessante poter seguire come questa categoria è stata poi declinata, rappresentata. Pensate che in un saggio nel 1952, quindi siamo più di mezzo secolo fa, si davano 200 definizioni di cultura, proprio per questa sua fluidità, per questo suo abbracciare. Quando è stato fatto l'elenco degli impegni del mio dicastero, effettivamente sono indicati alcuni percorsi, alcune traiettorie, ma voi potete ben comprendere che in pratica inesorabilmente noi siamo, se accettiamo questa categoria nella sua humanitas, siamo inesorabilmente condotti dal palazzo della politica, dalla sala dell'accademia alla piazza, con una difficoltà di trovare mappe precise, e alcune volte le definizioni che sono state date, non sto a citarne, sarebbe interessante citarne alcune, hanno delle caratteristiche che meriterebbero una serie di discussioni. Io vi faccio un solo esempio, avrei voluto anche usare Gramsci, per esempio, che è la figura forse da questo punto di vista più significativa per un'interpretazione, ma ormai è molto nota la sua interpretazione della cultura, ma ne vorrei citare con una brevissima espressione perché è molto significativa per quanto sta accadendo ai nostri giorni, anche se questa dichiarazione è del 27. Cito Freud nel Futuro di un'illusione: il principale compito della cultura, badate bene, la sua vera ragion d'essere è difenderci contro la natura umana. Voi capite che cos'è questa concezione se tenete presente adesso le teorie varie del gender, che sono proprio il tentativo di dare un primato tale alla cultura che prevarichi, alla fine cancelli. Certo, la cultura deve stare con la natura insieme, però in questo caso di diminuirla sempre di più, di lasciarla a margine. Ecco perché il concetto di cultura è un concetto esplosivo per certi aspetti, difficile da maneggiare. Questa era la prima considerazione che volevo fare a proposito della cultura. Ne faccio solo un'altra, una seconda, poi passerò più avanti perché lo spazio maggiore dobbiamo dedicarlo all'Evangelica Audio. E quindi già mi scuso perché, come sapete, questo campo della cultura a me preme in maniera particolare e potrei fare una lunga analisi di questo fenomeno e delle sue dimensioni. Io l'altra categoria, dopo aver definito il concetto, che poi non è definibile, di cultura proprio per la sua fluidità, tra l'altro io amo molto Borges, questo autore argentino caro anche Papa Francesco, che l'ha conosciuto di persona, anzi adesso voglio pubblicare un librettino sulla Bibbia e Borges, suo interesse. Aveva un'espressione veramente folgorante a questo riguardo per la difficoltà di esprimere questo concetto. Lui diceva in spagnolo: el universo es fluido y cambiante, el lenguaje rigido. L'universo, che è l'orizzonte della cultura, è fluido e mutevole, il linguaggio è rigido. Quando dobbiamo, è il dramma dei poeti, che devono rappresentare l'infinito con la finitudine e la concretezza e quasi, direi, il crogiuolo di ferro, stampo freddo, frigido delle parole. Ecco, l'altra categoria comunque che volevo evocare è quella della inculturazione, che riprenderemo proprio per l'Evangelica Audio. È una categoria, questa, il termine nasce in inglese con acculturazione, inculturazione, nel 1880 per la prima volta, ed è, direi, alla base una intuizione ancora del Settecento. Quando, accanto all'invenzione della parola cultura, come vi ho detto prima, si introduce, non è una banalità, guardate bene, si introduce il plurale, culture. Guardate che questa è stata e si è fatto fatica, perché allora si riteneva che la cultura fosse unica, quella europea. La metafisica classica, il diritto romano e, se si vuole, la riflessione teologica cristiana. E invece in quel momento, per esempio, c'è Herder che scrive un libro sullo spirito della poesia ebraica e c'è il famoso grande Goethe che scrive, che compone il Divano occidentale orientale, con attenzione particolare alla poesia persiana. Come vedete, lo sguardo si allarga, si ha la consapevolezza che era, peraltro, che diventerà poi la consapevolezza di Vico, di Montesquieu, di Voltaire, della pluralità delle culture, non dell'unicità monocratica di una cultura. Ed è per questo che questa pluralità ha dato origine al fenomeno della inculturazione, che era però condotta inizialmente, lo è stata ripetutamente, come un'interfaccia del colonialismo. Cioè si riconoscevano che c'erano altre culture, ma erano inferiori. E allora ecco che giungeva a un certo momento la cultura principe, che cercava in qualche modo di elevare quelle culture che erano di basso profilo. In realtà invece la questione è ben diversa: l'inculturazione, come vedremo attraverso l'Evangelii Gaudium, è sostanzialmente un dialogo, è un'interlocuzione. Voglio soltanto citarvi a questo proposito una dichiarazione ancora di Giovanni Paolo II ai vescovi del Kenya nel 1980, una frase brevissima. Una cultura trasformata, in chiave religiosa qui siamo, trasformata e rigenerata dal Vangelo, produce dalla sua propria tradizione e dalle sue proprie espressioni originali di vita, di celebrazione, di pensiero cristiano. Vedete, deve elaborare dalla sua propria tradizione. Il Vangelo viene ed entra e acquista un significato particolare per quelle culture che possono con la loro strumentazione elaborare questa trasformazione stessa del cristianesimo secondo nuovi linguaggi e nuove coordinate culturali. Qual è, e qui concludo questo primo, se si vuole, questa prima tavola del trittico della parola cultura, qual è la caratteristica alla fine dell'inculturazione, o se volete, quali sono i due estremi? Immaginate un pendolo, il pendolo che oscilla da una parte che è pure legittima, ma se si inchioda lì l'inculturazione crolla, oppure va all'altro, all'altra parte, all'altro estremo. Primo estremo è quello, se volete, della identità nazionalistica, l'identità etnica, l'etnocentrismo, che poi che è necessaria, ma quando il pendolo si inchioda lì e diventa l'elemento capitale, si crea il fondamentalismo. Tacito già diceva che non c'era niente da fare nelle sue storie. Guerra esiste e sempre esisterà tra i barbari e tutti i greci. Cioè noi, la cultura greca, la cultura classica, noi abbiamo una identità tale che tutti gli altri devono essere respinti e deve essere introdotta la guerra. Pensiamo che cos'è quel testo che è stato fondamentale, adesso è per fortuna superato, però ancora un punto di riferimento soprattutto per movimenti di questo genere integralistico-fondamentalistici, cioè lo Scontro di Civiltà, il saggio che nel 1996 pubblicò questo sociologo americano Samuel Huntington, con la sua concezione delle civiltà che proprio a causa delle loro identità possono sempre ininterrottamente scontrarsi. Lui ne elencava 8 che sono pronte a scontrarsi tutto, soprattutto con la nostra civiltà. E dall'altra parte, l'altro polo del pendolo è invece l'interculturalità. Notate bene che io non uso il termine multiculturalità, perché multiculturalità è un concetto statico. Voi guardate dall'alto, ancora adesso sostanzialmente, una metropoli americana come New York, e voi vedete che è costituita come una sorta di arlecchino di tante unità culturali. Little Italy, il quartiere ebraico, il quartiere Chinatown, il Bronx, ognuno con la sua identità. Little Italy fanno tranquillamente la processione di San Gennaro, per esempio, bloccando il traffico. Chinatown, le feste per il nuovo anno, cioè hanno delle loro identità precise, stanno per fortuna nell'equilibrio generale costituito dallo Stato, però non hanno dialogo tra di loro, se non quello indispensabile. Ecco invece l'interculturalità è l'impegno più arduo della vera inculturazione, cioè il dialogo inter. E questo evidentemente dovrebbe essere il compito della cultura, dovrebbe essere il compito delle religioni, non lo scontro, non generare la paura, non generare il rigetto, ma con tutte le fatiche che comporta questa grammatica, la grammatica dell'interculturalità, tentare di costruire questo confronto. Questa è la vera inculturazione, per cui io conservo la mia identità, però al tempo stesso riconosco che quella dell'altra ha dei valori e abbiamo probabilmente alcune componenti che sono comuni, a partire certamente dalla adamicità comune. La tradizione rabbinica ha una bellissima espressione che dice: gli uomini fanno le monete con un unico conio e le monete sono tutte uguali. Dio fa gli uomini e le donne con un unico conio, l'adamicità, l'umanità, eppure sono tutte e tutti diversi, a partire dalle nostre impronte digitali. Ecco questa interculturalità. Io uso spesso un'immagine che ho citato parecchie volte, un gioco di parole sull'italiano. Il fondamentalismo che abbiamo ricordato prima invita a vedere le identità, ma invita al duello. E chi vince? Ma chi ha l'arma più forte? L'arma materiale alla fine anche. E questa è la via più semplice, più che nella storia è stata ripetuta, che ancora ai nostri giorni, quando il ragionamento è molto scarso, molto semplificato, è quello che si adotta, perché è la via più semplice, il rigetto attraverso però la battaglia, il duello. Qui vince il più forte. Io invece dico che la cultura e la religione come compito hanno quello del costruire un duetto. E il duetto, voi sapete che in musica può essere composto da un soprano e da un basso. Il soprano non deve alzarsi e fare un'ottava più alta, e il basso non deve fare il falsetto. Ognuno conserva la sua voce, però vedete, si devono mettere in sintonia, in armonia. In sinfonia, è stato ricordato anche questo termine. E allora così costruiscono questa che è la vera inculturazione. Arduo questo percorso. Passiamo subito al secondo, lo farò seconda tavola del nostro trittico ideale, naturalmente dalla cultura e il Vangelo. Io del Vangelo ora lo considero soltanto dal punto di vista, se volete, culturale, che è una categoria fondamentale per interpretare il Vangelo. Un mio collega, che io stimo molto, forse voi con noi, i professori lo conoscono, anche gli studenti, perché probabilmente hanno studiato sui loro libri, il mio compagno di studi in passato, un biblista italiano, Romano Penna, studioso di Paolo, è partito anche lui per una riflessione di questo genere, è partito dalla categoria fondamentale, un asserto centrale del cristianesimo: il verbo carne divenne carne, Giovanni 1,14, o logos sarx segeneto. Solo che lui ha detto, la categoria sarx vuol dire storia, certamente esistenza, e in questo caso, quindi finitudine anche, in questo caso dice che esprime bene, secondo la nuova categoria di cultura, che esprime bene questo concetto è la categoria cultura, e lui ha tradotto anche così: il logos divenne cultura. una trascrizione di Giovanni 1,14. E questo è verissimo, perché noi vediamo come l'incarnazione significhi proprio entrare nel tessuto delle culture. Pensate che cos'è già l'Antico Testamento con la cultura nomadica, il contatto con la cultura nomadica, la fenicio-cananea, la mesopotamica, l'ittita, la persiana, l'ellenistica. Voi avete recitato, noi abbiamo recitato all'inizio il Salmo 29. Io mentre lo ascoltavo, io lo sento di più quasi nell'originale ebraico, avendo lavorato tanto come è stato quello sui salmi. Questo è uno dei salmi, il salmo cosiddetto dei sette tuoni, perché per sette volte risuona questa parola che in ebraico è ambigua semanticamente, cioè kol, come sentite onomatopeico, kol, kol, tuono, anche tuono è onomatopeico in italiano. E naturalmente diventa espressione la natura, voce, voce di Dio. Questo salmo, anche se secondo una mia interpretazione, ma non solo, ha una matrice che è di tipo cananeo, che cioè è stato assunto dagli inni che si innalzavano al Dio della tempesta, Baal Hadad, e che è stato poi yavistizzato, diciamo. Naturalmente con un'elaborazione molto forte, il salmo poi è molto raffinato perché è un contrasto tra l'irrompere della bufera della tempesta che tutto devasta dal nord verso il sud, e poi alla fine nel tempio c'è la pace olimpica della trascendenza dove tutti dicono gloria. Ecco, questo è un esempio di inculturazione, ma non parliamo poi di Cristo stesso. Cristo è un giudeo del primo secolo, tra l'altro un giudeo laico, lo dice la lettera agli ebrei, 7,14, io è la tribù di Giuda, della tribù di Giuda, non si dice nulla riguardo al sacerdozio. Ha una sua professione, artigiano, lo si dice in Marco 6,3, definito come artigiano, con quel vocabolo che poi in aramaico è difficile da tecton in greco, nagara in aramaico di difficile decifrazione, è poi un predicatore ambulante, è un ebreo marginale, come l'ha chiamato John Mayer, e poi vediamo che la sua cultura non è la cultura greca. Lui parla con i logia, logia paratattici, non il sillogismo. Parla come Papa Francesco da questo punto di vista. I suoi sono veramente i tweet. Pensate, rendete a Cesare quel che è di Cesare, rendete a Dio quel che è di Dio. In greco 50 caratteri con gli spazi. E pensate che cosa si è discusso, cosa si è elaborato attorno a questa. L'uso del simbolo, le parabole, non l'astrazione speculativa che è propria del greco, della cultura greca. La corporeità, la fisicità. Il Vangelo di Marco, nella vita pubblica di Gesù, secondo il Vangelo di Marco, per il 46% è continue guarigioni di malati. Ha sempre le mani su pelli malate, lebbrose in particolare. Pensiamo alla spiritualità, invece, la gloria della psiche nel mondo greco. La cosiddetta terza ricerca nella questione della storicità dei Vangeli, che si studia evidentemente in teologia per la storicità dei Vangeli, così è terza ricerca, qui è l'occasione anche per fare un ricordo del mio amico caro Monsignor Segalla, che aveva dedicato tanto a questi temi. La terza ricerca è proprio per mostrare la continuità tra il Gesù della storia e la distinzione tra Gesù storico e Gesù della storia e il giudaismo, anche se però bisogna sempre riconoscere, ed è questo tipico di una cultura, la propria innovazione, la propria capacità generativa autonoma, l'identità che crea il criterio non più della continuità ma dell'imbarazzo. è la discontinuità, quando Gesù rompe però anche con molti schemi della cultura in cui era inserito, ma lui rimane. E concludo questo sguardo così semplificato ricordando che poi il cristianesimo che è venuto dopo è stato sostanzialmente e ininterrottamente un dialogo con la cultura e un rivestimento strutturale, più che rivestimento, perciò una metamorfosi del messaggio che rimaneva nel suo nucleo duro, ma veniva espresso secondo la strumentazione che veniva usata dalla cultura. Pensate per esempio che cosa vuol dire se non ci fosse stato Platone e Plotino per Agostino. Come è stato fondamentale questo gli asserti del Concilio di Calcedonia sono formulati con le categorie del mondo greco filosofico. Vedete, quindi è un'operazione molto significativa. Paolo per primo lo comincia, ma vorrei, e concludo, detto questa seconda parte, vorrei citarvi questa frase, questo piccolo paragrafo della prima apologia di Giustino. Siamo nel secondo secolo, dal Logos, ascoltate bene questo, dal Logos divino, del Logos divino fu partecipe tutto il genere umano, e coloro che vissero secondo il Logos sono cristiani, anche se furono giudicati atei, come fra i greci, pensate un po' l'esempio, Socrate ed Eraclito e altri come loro. Li considerava cristiani perché avevano seguito questo Logos che era in loro, per cui dialogare con loro e avere il contributo anche della loro ricerca per testimoniare ed esprimere la verità cristiana. Cristo ci ha ricordato che il credente è sale, lievito, seme. E cosa vuol dire questo? Che entra nell'interno di una società, di una cultura, anche quando essa è, per esempio, secolarizzata. E andiamo all'ultima parte del mio intervento, che è quello che riguarda l'Evangelii Gaudium. Naturalmente, proprio per quel concetto fluido di cultura, è difficile, dovremmo a un certo momento abbracciare quasi tre quarti di questa enciclica, perché io faccio solo due esempi, due asserti che sono diventati famosi, sono diventati persino delle battute, uno è diventato il titolo di un libro, di un saggio persino. La realtà è più importante dell'idea, e questa è un'affermazione di tipo culturale rilevante. Oppure il tempo è più importante dello spazio. Interessante anche per la Bibbia, questo che dà il primato alla teologia della storia rispetto alla teologia spaziale, cosmica. La categoria cultura in maniera esplicita viene usata 50 volte, una cinquantina di volte. Io allora vorrei semplificare questo materiale, come ho detto, vasto, fluido, mutevole. Lo vorrei presentandovi tre itinerari, tre componenti, ho detto molto didascalico. La prima, Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium si interessa molto dei modelli culturali. I modelli culturali sono tanti, proprio per quella varietà che abbiamo detto. Lui ne sottolinea in maniera particolare quattro, io farò soltanto cenno a due. Prima di tutto la cultura urbana, il fenomeno delle aggregazioni delle metropoli, che è un fenomeno ormai sempre più inarrestabile, che dà origine poi alla città secolare. In queste enormi geografie umane Scrive: il cristiano non suole più essere promotore o generatore di senso, ma riceve da esse altri linguaggi, simboli, messaggi e paradigmi che offrono nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto col Vangelo di Gesù. Sono nuovi racconti, dice, nuovi paradigmi, e si produce una sorta di permanente ambivalenza tra infinite possibilità. Ecco, questo è la perdita, per esempio, delle proprie identità locali che entrano nell'interno di questa forma piuttosto grigia, indifferenziata della cultura urbana. Egli parla molto della cultura mediatica e possiamo ben immaginare quanto questa sia decisiva e incisiva. I nativi digitali ormai saranno i nuovi interlocutori nostri, della nostra generazione precedente, ma saranno loro che evidentemente non soltanto usano un linguaggio differente, che è il linguaggio, appunto, poniamo, del cellulare o del computer, ma usano anche, questo bisogna, creano un nuovo fenotipo antropologico, una comunicazione molto più fredda. Il ragazzo che sta 5 ore al computer di media europea ogni giorno, a chattare magari, comunica in una maniera completamente diversa, per esempio, da quella che avviene in questo momento tra di noi, dove c'è il gioco anche delle connotazioni, il gioco degli sguardi, delle pelli persino. Ma direi, io voglio solo, parla della cultura popolare, della cultura materna, è interessante questo aspetto, come cultura da custodire, quando entri invece nella dispersione, nella disseminazione della città. Ma vorrei invece soltanto fare un piccolo cenno, tra i modelli culturali, alle culture che chiama professionali, scientifiche e accademiche, perché qui mette in scena la teologia. Si colloca anche la teologia, il suo sforzo interdisciplinare, il suo sforzo per elaborare la credibilità del messaggio cristiano, della fede cristiana. Quando alcune categorie della ragione e delle scienze vengono accolte nell'annuncio del messaggio, quelle stesse categorie diventano strumenti di evangelizzazione, strumenti dello spirito per illuminare e rinnovare il mondo. In questo senso la teologia, non solo la teologia pastorale, in dialogo con altre scienze ed esperienze umane, riveste una notevole importanza per pensare come far giungere la proposta del Vangelo alla varietà dei contesti culturali e dei destinatari. E in maniera particolare lui ricorda questo dialogo con le culture professionali, scientifiche, accademiche, in particolare il dialogo fede, ragione e scienza. Questo per quanto riguarda i modelli, un ventaglio che si può allargare e che lui anche allarga: culture urbane, ho detto culture mediatiche, culture popolari, cui dà molto peso, cultura materna, culture professionali, scientifiche e accademiche. Secondo, la seconda parte del nostro discorso invece di questa riflessione sull'evangelica riguarda le sfide che questi modelli ci pongono. Sono sfide pastorali, culturali. E in particolare il Papa ne ricorda tre, che sono quelle sui quali ci dobbiamo ininterrottamente confrontarci. È interessante che io ero accanto a lui quando era a Milano il sabato scorso, al clero, quando ha parlato al clero, si è partiti proprio con la questione delle sfide, che era in una delle domande del clero, e lui ha sottolineato, perché le sfide il prete le aveva presentate, un mio ex alunno tra l'altro, le aveva presentate come il grande incubo, noi arriviamo lì e troviamo queste componenti che elencherò e che ci impaura. Il Papa ha detto: no, in realtà le sfide sono il grande terreno nel quale siamo incarnati, siamo stati posti, ed è quindi una componente che dobbiamo guardare con occhio positivo, anche se sono negative in sé. E quali sono? Beh, pensate, basti soltanto elencarle. Pensate, prima, il secolarismo, che tende a ridurre la fede e la Chiesa all'ambito privato e intimo, con la negazione di ogni trascendenza, ha prodotto una crescente deformazione etica, un indebolimento del senso del peccato personale e sociale, un progressivo aumento del relativismo, dando luogo a un disorientamento generalizzato. Lui poi fa gli esempi della crisi della famiglia, della crisi dell'adolescenza e della giovinezza nell'interno di questo mondo secolarizzato, dove per esempio la categoria verità non è più una categoria come per Platone, la pianura della verità dove la biga dell'anima corre scoprendo sempre più nuovi orizzonti, la verità ci precede e ci eccede. No, la verità è invece un'elaborazione a ragnatela, che ognuno elabora da se stesso e che quindi ha in sé una sua soggettività che può essere mutevole, basta che stia nell'interno di un periodo, di un perimetro molto fluido. Non è quello che diceva già Adorno nei Minima Morali, è bellissima questa sua definizione, invece era più nella linea classica. La verità non la si ha come un oggetto. Nella verità vi si è, e vedete che perciò è un orizzonte da conquistare, la ricerca della verità, per cui Platone nell'Apologia di Socrate mette in bocca al suo maestro che una vita senza, il suo testamento di Socrate, una vita senza ricerca non merita di essere vissuta, la ricerca della verità. Secondo, l'indifferenza, altra sfida. La cultura, nella cultura dominante, il primo posto è occupato da ciò che è esteriore, immediato, visibile, veloce, superficiale, provvisorio. Il reale cede il posto all'apparenza. In molti paesi la globalizzazione ha comportato un accelerato deterioramento delle radici culturali con l'invasione di tendenze appartenenti ad altre culture economicamente sviluppate ma eticamente deboli, indebolite. Superficialità, banalità, stereotipi, volgarità si insediano nella piazza pubblica della società contemporanea e si irradiano innervando il palazzo, le case, le famiglie, le persone, gli stessi credenti. Terzo, questo è un punto a lui particolarmente caro, una sfida, oltre al secolarismo e all'indifferenza, la sfida è quella del benessere e col suo volto antitetico lo scarto. Noi viviamo, per usare una bella espressione che a me è sempre piaciuta di Ricoeur, noi viviamo in un tempo in cui abbiamo la bulimia dei mezzi e un'assoluta atrofia e anoressia dei fini. Pensiamo alla strumentazione tecnica, quale qualità ha, la cultura del benessere è tutta lì, senza fini. E lentamente, cito le parole di Papa Francesco, ci anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato. Mentre tutte le altre vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo. Quella famosa globalizzazione dell'indifferenza che è stata, che è nella Evangelii Gaudium, è una delle frasi, e la cultura dello scarto. Ecco, è interessante questa, non vi siete mai chiesti che origine ha questa parola scarto? La parola scarto in italiano deriva da quarto, perché si immaginava il quadrato e dal quadrato tu stacchi un quarto. Come si dice staccare un quarto da quel quadrato, rompendo quindi l'armonia? Si dice in italiano squartare. Voi vedete il corpo vivo che viene, un corpo che viene spezzato e viene buttato via, per cui è anche una rovina della società nel suo insieme, non è solo la disgrazia di quelli che vengono scartati e quindi non hanno più la vitalità globale del quadrato. E qui Papa Francesco naturalmente, e dico che questa è una riflessione molto importante nella, di cui sono sensibili, ormai diventano sensibili, per esempio gli architetti. Pensate a Renzo Piano e il suo nuovo tentativo di rammendare le periferie. Problema che era già presente, ricordate quel testo che è veramente uno scrittore, Le città invisibili di Calvino. Marozia, quella città nella quale ci sono la città delle rondini, quelli che volano nella rete, la città cablata, la città perfetta, e quelli che invece sono la città dei topi, quelli che alla sera, vedete, escono, basti vedere le grandi metropoli. Questa cultura del benessere e dello scarto, che poi è quella che Michael Walzer diceva, la differenza tra gli ateniesi e i meteci. C'è ancora nella nostra cultura. E l'ultima parte è quella che riguarda, di fronte a questa situazione, a queste sfide, secolarismo, indifferenza, benessere scarto, nelle quali culture noi, i nostri piedi sono piantati, e non bisogna, il cristianesimo, se è il verbo si fece cultura, non ci invita a decollare dalla realtà verso cieli vaghi, mitici, o rigettare la realtà in cui siamo, con tutta la fatica, carne e sangue che comporta sentieri d'altura da percorrere sbucciandosi le ginocchia. Ecco, di fronte, quali sono le vie per entrare, le vie pastorali, culturali? E anche qui io ne scelgo tre tra quelle che Papa Francesco propone. La prima è la via della inculturazione. E qui Papa Francesco ha molte componenti, molte riflessioni di vario genere. Non farebbe giustizia alla logica dell'incarnazione pensare a un cristianesimo monoculturale e monocorte. Il cristianesimo, ripete, non dispone di un unico modello culturale. Invita tutti i missionari a operare in armonia con i cristiani indigeni per assicurare che la fede e la vita della Chiesa siano espresse in forme legittime appropriate a ciascuna cultura. Quando un popolo si è inculturato, quando il Vangelo nel suo processo di trasmissione culturale trasmette anche la fede in modi sempre nuovi. E da qui l'importanza dell'evangelizzazione come inculturazione. Inculturazione dice che nei paesi di tradizione cattolica e nei paesi invece altri, esterni. Secondo, il dialogo è il tema questo caro a Papa Francesco, costante, che è cristiano, perché il cristianesimo di sua natura, proprio per la categoria etica fondamentale della carità, è incontro, è confronto. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è calon, dice Paolo ai cristiani di Tessalonica. E voi capite che questa parola dialogo greca, tra l'altro in greco ha due significati. L'incrocio dia di due logoi, ma anche dia in profondità, scavare in profondità, e il dialogo è arduo, come dicevo prima. È tempo di sapere come progettare in una cultura che privilegi il dialogo come forma di incontro, la ricerca di consenso e di accordi, senza però separarla dalla preoccupazione per una società giusta, capace di memoria e senza esclusioni. E qui il Papa cita un'esperienza che noi conduciamo, che è stata citata anche prima, che è quella del Cortile dei Gentili, che è veramente un'esperienza che mi stupisce tutte le volte, perché ormai abbiamo fatto tantissime, un'ottantina di principali metropoli, del mondo, e dove città di vario genere, dove effettivamente questo dialogo deve avere ed è fruttuoso solo se gode, si alimenta del rispetto reciproco e della profondità. Riconoscere i due logoi, logoi seri, quindi il cristiano deve arrivare per primo con le sue argomentazioni, con la sua capacità epistemologica anche, e dall'altra parte però anche l'altro deve presentare la sua visione. E giungo all'ultimo, l'ultima via che propone, ed è una via particolarmente cara a me, ma penso alla tradizione cristiana, la via pulcritudinis. Il pontefice fa riferimento all'asserto agostiniano secondo il quale noi non amiamo se non ciò che è bello, nel De Musica. E qui ricordiamo la grande lezione, se volete, di von Balthasar, il quale ci ha ricordato che non basta costruire una teologia sulle categorie capitali del verum e del bonum, due fondamentali certamente, la verità e la bontà, quindi la teologia e la morale, ma anche bisogna considerare il pulcrum come una vera e propria via privilegiata per la teologia, per la percezione della verità, la Wahrnehmung, la Schau, la visione. L'uso delle arti, dice Papa Francesco, nella stessa opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo linguaggio parabolico. Questo è un compito da scegliere. E voi capite che dovrebbe ritornare ancora attraverso l'arte, vero quello che diceva San Giovanni Damasceno, quando gli si presenta, diceva, quando vi si presenta un pagano, voi non cercate di fare grandi discorsi, quindi noi diremmo un ateo, tu prendi, portalo nel Tempio e mostragli i quadri, le grandi decorazioni, i grandi simboli, e basta, e taci. E voi capite che questo può avvenire, avveniva nelle grandi templi, grandi cattedrali. Oggi in qualche caso sarebbe meglio tener lontano i non credenti da certe chiese, perché la via pulcritudinis è una via che deve percorrere le sue strade in maniera nobile ed alta. Ecco, io ho finito, abbiamo visto per Evangelii Gaudium i modelli, le sfide e alcune vie, queste dell'inculturazione, del dialogo e della bellezza. E voglio concludere lasciando la parola a Papa Francesco, che tra l'altro in questo brano cita un'affermazione della Fides Ratio di San Giovanni Paolo II. È una, direi, definizione globale, una specie di riassunto anche del discorso, molto semplice per certi aspetti, ripeto ancora, lungo e didascalico, che io ho condotto. Sentiamo quindi la sua parola. Ogni popolo è il creatore della propria cultura, è il protagonista della propria storia. La cultura è qualcosa di dinamico che un popolo ricrea costantemente, ed ogni generazione trasmette alla seguente un complesso di atteggiamenti relativi alle diverse situazioni esistenziali che questa deve rielaborare di fronte alle proprie nuove sfide. L'essere umano, perciò, è insieme figlio e padre della cultura in cui è immerso. Grazie. giorni della Chiesa. E questa era la prolusione del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, in occasione del Dies Academicus, l'inaugurazione dell'attività del dodicesimo anno della Facoltà Teologica del Triveneto. Il cardinale Ravasi è intervenuto sul tema Fede e Cultura nell'orizzonte dell'Evangelii Gaudium. Ringraziamo la Facoltà Teologica per la collaborazione tecnica e la condivisione di questo audio. È di Daici in regia, voi per l'ascolto, da Mirko Cavallin. Buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.